Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi di Tenera Amata, sul libro di Tenera Amata. Cade questa puntata nell'ottava di Natale, quindi vedremo in questo tempo così bello e santo che cosa ci riserva la lezione di questa sera. Ci siamo lasciati la volta scorsa con Riccardo che si era appena bilocato nel suo corpo di bambino. E chi lo sa se questa sera vedremo, o forse non questa sera. Ecco, forse sì, che Riccardo farà una marachella durante questa esperienza di bilocazione e le conseguenze anche che sarà molto bello andarle a vedere, a rifletterci un pochino sopra. Direi di cominciare subito la lettura, dato che ci siamo rapidamente ricollocati dove siamo rimasti, e così andiamo avanti. All'improvviso leggo l'ultimo capoverso, così ci collochiamo meglio. All'improvviso mi sentii dentro il ragazzino sbalordito ed immobile. Non si trattava di un incontro tra me e lui, dal momento che in quel bambino non vi era nessun altro né fuori di me. Ero assolutamente sicuro che tutti e due eravamo la stessa persona. A causa della posizione del volto del bambino, appena riuscivo a vedere attraverso dei suoi occhi, dei miei occhi infantili, e al margine del campo visivo una piccola parte del mio corpo di anziano dall'altra parte della finestra. Mi sarebbe piaciuto che il bambino muovesse leggermente la testa per guardare Tenera Amata accanto al mio corpo di adulto e al tempo stesso vedere la mia faccia attuale. Non osai comandare quel movimento secondo le istruzioni ricevute. Sapevo però che mi sarebbe stato molto facile volerlo. Potei invece osservare con gli occhi fissi del mio corpo infantile, immobili sul bel volto della ragazza che con la bocca semiaperta sembrava di cantare la stessa Tenera Amata, la mia antica pacarera, con la sola differenza che adesso restava in piedi vicina al mio corpo di bambino. Tuttavia, la Tenera Amata celeste, quella che stava fuori, appariva molto più bella di quella che contemplavo nei miei occhi infantili. Che meravigliosa sensazione! Vivevo io nel mio antico corpo. Lei aveva ragione, mi sentivo come nella mia propria casa. E quel mio corpo anteriore, custodito fedelmente nel magazzino del tempo passato o quinta dimensione, era 48 anni più piccolo di me. La mia anima spirituale aveva preso possesso cosciente del mio antico corpo. L'opzione era affascinante, sentirmi bambino o anziano. È chiaro che non comprendevo il prodigio, ma godevo sperimentandolo. Nonostante la bilocazione, mi disse Tenera Amata, continuo in contatto spirituale con te. In questi istanti di paratempo, la tua unica anima si trova ad animare coscientemente i tuoi due corpi. Non ti suggerisco di farne la prova, poiché è difficile per i viatori comandare in un corpo ed essere recettore nell'altro. È come se la mia unica anima si fosse reincarnata nel mio corpo di bambino, vero? No. La bilocazione e la reincarnazione sono due cose diverse. Quest'ultima significa, secondo quanto vedo nella tua memoria, che un'anima umana venga ad animare esclusivamente un altro corpo diverso da quelli che possedete in questa vita terrena. La bilocazione, invece, è l'attuazione cosciente di una stessa anima spirituale in due luoghi diversi allo stesso tempo, oppure in due spazi-tempi differenti. Questo l'abbiamo già imparato. Ma facciamo una prima sosta. Anzi, leggiamo un altro capoverso che finisce di parlare della differenza tra bilocazione e reincarnazione. Tu non ti sei reincarnato nel tuo corpo di bambino perché è la tua propria carne. La tua anima non è trasmigrata da un corpo ad un altro diverso, ma sta animando due corpi tuoi distanti nel tempo. Inoltre, la metempsicosi o reincarnazione è una teoria erronea. L'anima mai si rende indipendente dal suo organismo integrale. Quindi è impossibile che si reincarni ciò che mai si disincarna. Dopo ti spiegherò anche cosa consiste la morte. Attenzione che questo è un concetto fondamentale. È un concetto fondamentale e che, come dire, non rettifica alcune idee che ci abbiamo. Le rettifica, inevitabilmente. Allora, ricollochiamoci in quello che stiamo vedendo. Allora, cosa sta succedendo? Abbiamo parlato la volta, nelle lezioni precedenti, ma proprio la volta scorsa, che noi conosciamo soltanto un tipo di bilocazione. Conosciamo, ne abbiamo sentito parlare, tipo le bilocazioni di Padre Pio, no? Che cos'era la bilocazione di Padre Pio? Era che Padre Pio, nella stessa ora, si trovava con il suo corpo di 48enne, 50enne, 60enne in due posti diversi, in contemporanea. Tu ci parlavi a San Giovanni Rotondo e magari una persona ti sta parlando a Milano. Questa era l'unica bilocazione che noi conoscevamo. Però quello era sempre Padre Pio. Quindi cosa dice Tenera Amata? Due luoghi diversi, la stessa anima spirituale, in due luoghi diversi allo stesso tempo. Ok? Anima. Lo stesso corpo in due luoghi diversi allo stesso tempo. Oppure, e questa non la conoscevamo, la stessa anima spirituale anima lo stesso corpo, ma in due spazi-tempi differenti, come nel caso che sta facendo vivere a Riccardo, 48 e 8 anni. Ho 10 anni, adesso non mi ricordo quanto c'è quel bambino, ma è tanto importante ovviamente, no? E Riccardo avverte che primo la sua anima spirituale aveva preso coscienza di quel corpo e secondo che non stava lì dentro come un estraneo, quindi come un interlocutore, ma stava lì dentro come se stesso. È chiaro che questo noi possiamo capirlo entro certi limiti, perché non l'abbiamo vissuto. Quindi qui ci sono tante cose. Come già in tutte quante le verità di fede è sempre, sapete, no? Si chiamano misteri. Misteri significa che tu puoi cogliere qualcosa, ma non lo puoi capire perfettamente, perché se la capissi perfettamente, non sarebbe più fede. non sarebbe più una conoscenza di fede, sarebbe una conoscenza per cause, quindi sarebbe una scienza in senso stretto. Quindi nelle cose di fede, per questo che si chiamano misteri, il mistero è qualche cosa non di completamente evanescente, quindi una cosa è un mistero, non ci capisco niente. No, non è così. Mistero ci capisci qualcosa, quindi lo inquadri, lo focalizzi in parte, però ti sfugge. Pensiamo all'oceano dei misteri che è la Santissima Trinità. Lì è difficile anche focalizzare qualcosa, nel senso che anche la teologia, che pure ha delle conoscenze certe, ci sono stati i primi sei concili della Chiesa che sono stati dedicati tutti quanti al dogma trinitario, al dogma cristologico, quindi combattendo tutte quante le eresie che sono state a bizzeffe su questi temi. Però tu ti studi tutti quanti i concili e quindi ti impari bene la dottrina cattolica sulla Santissima Trinità, diciamo che sì, un pochino hai focalizzato, ma in relazione a quello che Dio è, a quello che Dio Trinità è. Io lo dico insomma con cognizione di causa perché credo di essere in grado di poter presentare adeguatamente la fede cattolica sulla Santissima Trinità, però in confronto a quello che Dio è, si balbetta qualcosa di vero, per carità, di sacrosantissimo, ma si balbetta qualcosa. Ecco, quindi non pretendiamo nemmeno, io continuo a ricevere mail, cose, domande, cioè. Punto primo, prima di fare le mail e le domande, ho sempre detto arrivate, fermatevi, arriviamo alla fine dell'opera, d'accordo? Perché alcune cose vengono trattate nel corso di essa. Noi siamo ancora, siamo arrivati più o meno a metà. Siamo a pagina 58 di 102. Ce ne stanno altre 50 pagine. Ecco, poi possiamo fare alcune domande. Domande, per carità, a cui spero in parte di saper rispondere, perché qui si aprono degli orizzonti, delle prospettive inediti e in cui non sempre si capisce bene. Per esempio, oggi, questo primo capoverso afferma che la reincarnazione, oltre a essere un errore, è impossibile. Ecco perché è un errore. Perché? Perché l'anima non si rende mai indipendente dal sentire, dal suo organismo integrale, mai. Più avanti ti spiegherò che cosa consiste la morte. Posso già anticipare. La morte non è l'apertura di una fase in cui noi saremo semplicemente puri spiriti. Non è esatto questo qui. Perché l'eternità creata che abbiamo vissuta. Cioè, se stiamo capendo questo concetto, attenzione, facciamo l'esempio di adesso, cioè quello che io sto vivendo adesso si deposita nel magazzino del tempo, non può essere cancellato, cioè ora la mia anima sta animando il mio corpo alle 21:47 del 29 dicembre del 2022. Questa cosa rimane per tutta l'eternità. Per cui quando io sarò morto, certamente se io muoio tra 50 anni, lo spazio-tempo del 2000 e che ne so, del 2000, da quello che ho capito, ecco, del 2000, facciamo del 2100, che sicuramente sono morto nel 2100, speriamo prima, però. Allora, sicuramente nello spazio-tempo del 2100, io non starò sul pianeta Terra con il mio corpo mortale, perché il mio corpo mortale sarà dentro la tomba, al cimitero, ma tutto quanto l'arco della mia vita terrena, io l'ho vissuto col corpo. E io l'ho vissuto col corpo. Quindi, a quanto mi sembra, cioè questo mi sembra certo da quello che si capisce qui, i 50, 30, 20, 40 anni che noi, 5, 80, che campiamo con il nostro corpo, salvo gli spazi-tempi peccaminosi, che quelli vengono cancellati, non ci sono, ecco, e che devono essere poi perdonati attraverso il sacramento della riconciliazione, ma questi rimangono. Rimangono. Quindi, se la mia anima sta, anima il mio organismo integrale, semplicemente poi a causa del peccato originale si staccherà, passerà attraverso la morte e si separerà dal cadavere. Poi lo spiegherà bene, Tere Namada, che significa. Non può incarnarsi in un altro corpo, è impossibile. Non è soltanto un errore, è impossibile. Questo capite che ci va anche recuperare una dimensione differente e santa, a mio avviso, della nostra corporeità. Cioè, il corpo, qui siamo proprio migliaia di anni luce lontani, sia dai platonici che dagli gnostici. Non è che il mio corpo è un accidente, non ho il mio corpo, cioè attenzione che anche tutta quanta il nostro rapporto con il corpo, no? Con il nostro corpo. Cioè, la comprensione di queste cose, a mio avviso, fa comprendere, per esempio, anche alcune esortazioni che, per esempio, nella tradizione ascetica cattolica ci sono. E qui le signorine adesso saltano subito dalla sedia. Cioè, le alterazioni artificiali o artificiose del nostro corpo, quelle che determinano un cambiamento, come dire, molto appariscente, molto, molto visibile. Siamo sicuri che siano delle cose fatte bene al 100%? Perché questo corpo che mi è stato dato è esattamente quello che Dio voleva che io avessi. E In questo momento storico, per esempio, la mia persona non può godere, come dire, dell'abbellimento che nostro Signore, nel suo atto creativo fa agli esseri umani, rappresentato dai capelli. D'accordo? Non ci stanno. Prescindendo dal fatto che sono prete, quindi un prete non può, non ci deve anche pensare a queste cose e non deve farle, no? Quindi, però, tanto per fare un esempio. Se facciamo finta che non fossi prete, dico, voglio farmi il trapianto. Che diciamo? Lo facciamo sto trapianto oppure no? Io non sono mica tanto sicuro. Cioè, adesso sto divagando con mie opinioni personali. Perché se il nostro Signore voleva che io i capelli me li conservassi per sempre, rimanevano, e stanno persone che arrivano a 50-60 anni che hanno una montagna di capelli, no? Quindi, come dire, imparare a stare a nostro agio col nostro corpo così com'è, senza andare a violentarlo, a sfrugugliarlo, capite? Cioè, una volta che uno ha il dovere morale di mantenere il corpo in buona salute, e qui si apre un'altra parentesi, senza diventare esaurito, chiaramente salutista, eccetera, eccetera, no? Però di mantenere in buona salute, sì. Guardate che oggi, in questo mondo che sembra idolatrare il corpo, l'ho già detto altre volte, in realtà c'è proprio una pessima considerazione ed un pessimo modo di trattare il corpo, pessimo. Ripeto, il corpo non è un accidente oppure una cosa, mi sono capitato qua dentro, vabbè, poi tanto va a finire sotto un metro di terra, diventa cibo per i vermi, quindi pensiamo all'anima, sì, per carità, l'anima è sempre assolutamente il principio primo, principale, d'accordo? Anche perché se non penso all'anima, il corpo se ne va, se ne va malora per tutta l'eternità appresso all'anima. Quindi, ma non dobbiamo concepire questo rapporto come un rapporto estrinseco o accidentale, no? Voi pensate che gli gnostici, che avevano radicalizzato alcune teorie platoniche, no? Voi sapete che secondo Platone Dio crea le anime prima, le anime sono preesistenti, dopodiché a un certo punto queste anime, a causa della colpa originale, cadono dentro un corpo. Questo diceva, la dottrina platonica, poi ancora più accentuata dal neoplatonismo, e quindi si ritrovano per tutto il tempo della vita terrena in questo carcere e non vedono l'ora di uscirne per ritornare al proprio principio. Sto semplificando, ma questo è il platonismo. Aristotele poi si sarebbe opposto a questo qui, e San Tommaso avrebbe seguito Aristotele, e la Chiesa ha seguito Aristotele, non ha seguito San Tommaso. Aristotele diceva che l'anima era la forma sostanziale del corpo. Quindi forma sostanziale vuol dire che non è che ci è capitata così. No, no, che insieme al corpo forma la persona. Allora, alcuni gnostici dicevano, allora, la cosa importante è l'anima, no? I famosi Nicolaiti di cui parla il libro dell'Apocalisse. Allora, se la cosa importante è l'anima, fai tutti gli atti impuri che ti pare. Tanto gli atti impuri all'anima non gli fanno niente, non gli fanno. Quelle sono cose corporee, sono cose materiali, quindi non ti preoccupare. E invece manco per niente. Qua, fate attenzione a questo ragionamento, perché non è tanto, cioè, l'atto impuro è un atto molto materiale, no? Oh, ma guardate che dall'atto impuro è scaturita la rovina del genere umano, catechesi dell'anno scorso, che si trasmette e che ci mette in stato di interdizione per tutta quanta la vita. Il peccato originale non segna soltanto, segna l'anima. Ed è una cosa che però è partita. Dico tutte quante queste cose per far capire bene alcune dimensioni, eh? Se uno si mette a fare troppo lo spiritualista, va a finire che diventa agnostico in quel senso. Quindi l'anima è la cosa principale, ma il corpo non è un dettaglio accidentale, d'accordo? E quindi poi anche una cosa che posso trattare Pensate, l'ho già detto, credo, non so se in questo contesto oppure durante le catechesi sono nuovissimi, no? La barbarità dell'andarsi a fare bruciare dopo che uno è morto. Non è una cosa bella questa qui. La Chiesa lo consente, sì, lo consente adesso, non è che lo consente, lo tollera, ma non lo raccomanda e tantomeno lo consiglia e tantomeno lo approva a tout court. Ti celebri il funerale purché sia chiaro che tu non hai fatto questo in sfregio al dogma della risurrezione, ma non, cioè, se uno legge bene l'istruzione del 2014, sì, dovrebbe essere il 2014 o il 2015, si vedrà che la Chiesa non ha fatto favorevole a questa cosa, perché non è indifferente. Tanto è vero che durante le esequie ci sono tutta quanta una serie di gesti, di espressione di ciò che il corpo di un battezzato è. Viene asperso con l'acqua benedetta, viene asperso quando il sacerdote lo va a benedire dopo che è morto, alla fine del rito funebre. Poi si asperge con l'acqua benedetta pure il sepolcro. E poi viene incensato il corpo, il cadavere viene incensato, il feretro. Che fa? Incensi il cadavere? Certo che incenso il cadavere. Certo, perché quello è il corpo di un figlio che è il corpo di un figlio di Dio. È un corpo che da un certo momento l'anima lo ha lasciato e il cadavere lo lascia, come vedremo, l'anima. Questo è sicuro che l'anima lascia il cadavere. Ma prima? Non è che il cadavere è un'altra cosa rispetto al corpo di prima. Sì, certamente è. È un corpo senza anima, ma è sempre il corpo di un figlio di Dio. Ok, proseguo la lettura. Questi sono concetti abbastanza importanti, cioè vorrei far capire, stiamo leggendo un testo molto molto bello, no? Ma sempre dentro un contesto catechetico, no? Quindi che ci aiuti anche a interiorizzare alcuni punti e alcuni valori. Riprendo, il tuo organismo infantile continua e continuerà ad essere tuo, lo potrai possedere di nuovo pienamente in questo paratempo, ma non lascio che tu lo verifichi a causa dei pericoli che ti dissi. Quando vivrai nel cielo, attenzione, adopererai qualsiasi dei tuoi corpi in qualsiasi degli spazi-tempi che avrai vissuto sulla terra. Quando sarai in cielo, però. E non dice dopo la risurrezione della carne. Quindi vuol dire che l'anima che si separa dal cadavere può fare queste operazioni in tutti gli spazi-tempi che avrà vissuto sulla terra. Anzi, la tua anima li glorificherà in modo indicibile, fino al limite del tuo grado di gloria. Il tuo spirito perfezionerà il tuo organismo integrale. A tal punto che nemmeno tu stesso ti riconoscerai. Il beato esercita assoluto dominio sulla materia, energia, spazio-tempo, eternità creata. Assoluto dominio sulla materia, l'energia e lo spazio-tempo dell'eternità creata. Più avanti te lo dimostrerò. Attualmente osservi te stesso unicamente nel piano della coscienza, ridotto ed incompleto del momento presente. Torniamo sempre allo stesso punto. Ti conosci appena nel bagliore del lampo dell'istante attuale. Non riesci a contemplarti nel grandioso ambito della realtà oggettiva e completa, come un essere totale, in rilievo con tutti i tuoi atti di esistenza nei loro rispettivi spazi-tempi. Vedrai che meraviglia quando contemplerai la serie delle tue fasi corporali nel fantastico ologramma eterno della beatitudine celeste, non già tridimensionali, ma pentadimensionale, nemmeno quadridimensionale, perché abbraccerà le cinque dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, tempo ed eternità creata, la famosa quinta dimensione. Don Pablo Martin, quando ha scritto dei bellissimi testi, che dovrò trovare il modo poi di inserirli e di commentarli. Adesso non so se durante oppure alla fine facciamo un appendice, però dice, chi si sorprende? Allora, il discorso è questo qui, no? Allora, l'ha fatto anche Teranamata, questo esempio, no? La nostra vita è come se noi stiamo viaggiando sul treno. Sul treno tu, il treno cammina e tu, mano a mano che passi davanti a qualunque immagine che vedi dal treno, immediatamente dopo è già sfuggita. D'accordo? E supponiamo che la tua vita sia un viaggio in treno, no? Parti da A e arrivi a Z. Tu, nella tua vita terrena, stai sul treno. Per cui stai sempre in movimento. Il treno, facciamo finta che non possa tornare indietro, quindi può andare soltanto avanti. Fino a quando non arrivi al capolinea. Ma, dice Don Pablo, se tu salissi, te ne vai a quota 10.000 metri, d'accordo? E supponiamo che c'avessi una bella vista bionica, se tu vai a vedere da alto 10.000 metri, anche un treno che percorra 1.000 chilometri, la vedi tutta la traiettoria, d'accordo? Tutta quanta, da sopra. Ok? Questa è una piccola immagine che fa intuire, non dico capire, qualche cosa di quello che poi lì succede. Quindi c'è un controllo di tutto quello che c'è stato e una possibilità di intervento su quello che c'è stato. Allora, torniamo alla tua bilocazione. Che ti sembra ciò che stai vivendo? Dice, è fantastico. Sento che questo piccolo corpo è tutto mio, ma non mi spiego il motivo, non ho mai contemplato la mia anima. Risponde Teranamata, non la vedrai con i tuoi occhi corporali, ma la conoscerai molto bene nella tua vita eterna mediante la dilettevole attenzione introspezione celeste. Allora comprenderai che la tua anima pensa ed ama, governa e controlla in modo perfetto la tua materia, energia, biologia e psicologia. Questo l'abbiamo già visto, facciamo un ripasso, no? Forse non ce l'ha mai detto nessuno che la digestione è governata ed è diretta, soggetto, sceneggiatura e regia, dall'anima. La circolazione del sangue dall'anima, il ritmo del battito cardiaco dall'anima. I battiti aumentano quando io sto camminando, quando io sto correndo, eccetera, eccetera, quando sto facendo attività fisica, perché l'anima, che è la grande direttrice, anche se la mia coscienza non se ne rende conto adesso, conosce benissimo tutte quante le leggi legate alla materia, quindi sa bene che in presenza di una certa affaticamento, eccetera, eccetera, adesso non sono purtroppo un espertissimo, vado avanti a reminiscenze abbastanza rudimentali che ho di queste materie, quanto vorrei adesso conoscere bene, proprio da un punto di vista scientifico, tante cose. Qualcuno mi ha mandato per mail anche delle bellissime cose, dei trattati scientifici, delle cose, vorrei tanto avere un pochino di benedetto tempo, ma magari si potrebbe pure trovare, però adesso è tutto quanto complicato, quindi tocca accontentarsi e magari rimandare. Lo so che tante cose sarebbe molto molto belle approfondire, ma il tempo della nostra vita, magari ci potessi andare a mettere dentro qualche paratempo, adesso che vedremo che alla fine di tutta quanta questa vicenda, nel tempo normale sono passati, non mi ricordo se pochi secondi o pochi minuti, e qua nel frattempo ci abbiamo letto 100 pagine, noi ci saremmo stati 50 ore su queste cose qui, no? Ecco, vabbè. Quindi è fantastico. Quindi la conoscerai bene e conoscerai direttamente il tuo proprio volto, o meglio i tuoi volti, senza bisogno di fotografie né di specchi. Così come oggi osservi il tuo volto infantile. Attenzione! Così torniamo a quello che ci siamo detti prima sul corpo. Comprenderai fin nell'ultimo particolare la tua anatomia, fisiologia, biochimica, fisica nucleare, sopraenergia ed infraenergia. E attenzione, e ringrazierai il nostro Dio dello splendido regale del tuo essere umano totale. Ora, questa cosa noi in parte possiamo anticiparla. Siccome, se uno impara, attraverso la divina volontà, a fare un pochino di giri. Io tante volte durante le meditazioni ho detto, ti sei fatto un po' di giri nel tuo corpo? Falli. È bellissimo fare un po' di giri nel tuo corpo. Impara a farli, quel poco che possiamo, però impara a farli. Certo, adesso non possiamo comprendere, però immaginate quando comprenderemo perfettamente la nostra anatomia, la nostra fisiologia, la biochimica. La chimica della vita, tutto quello che succede dentro, tutte quante le reazioni chimiche. Io ho una nipote che è laureata in chimica, dico beata a lei. Io so quasi niente di chimica perché la odiavo questa materia. Poi per quel poco che l'ho studiato, ho fatto il liceo classico, quindi si studiava poco, ma quel poco io mi ero messo in testa che la chimica non la volevo studiare. Io sto qui per studiare il latino, il greco, la filosofia, la storia. A me che me ne importa di queste cose, di queste cose materiali, le chimiche, le formule. Non c'ho tempo. Purtroppo la mia stupidità di giovanotto e di adolescente non mi faceva comprendere queste cose, no? Ma sarebbe bellissimo, perché anche, cioè, in tutte queste cose, la fisica nucleare, ma voi pensate a qualche scienziato intelligente, no? Tipo Enrico Fermi a suo tempo, o adesso anche Antonino Zichichi, no? Quando una persona usa il cervello, capisce bene che accostarsi alla realtà profonda, scientifica, reale, è accostarsi al nostro Signore. Gli atomi li ha fatti lui. Le formule chimiche le ha fatte lui, cioè le formule chimiche che danno vita alla varietà delle sostanze, che ne so, H2O, che è una delle poche cose che mi ricordo, due atomi di idrogeno e uno d'ossigeno, che è la molecola dell'acqua, ha fatta lui questa composizione chimica. E l'acqua è quella che è l'acqua, perché H2O è la fatta nostro Signore. Questa è proprio una stupidaggine, ma questo vale per tutte le sostanze. Magari a saperle, tante cose. Però, grazie a Dio, recupereremo in paradiso, e anche le persone che magari non hanno qui una grande cultura, che magari si possono sentire un po' meno mate, non vi preoccupate che in paradiso diventiamo tutti antiscienziati, tutti, d'accordo? Perché queste cose valgono anche per la persona più semplice di questo mondo, anche per la persona che non ha potuto approfondire gli studi. Non ha tutta quanta questa grande cultura, non fa niente, non fa. Non c'è, quello che c'è qua giù fa poco, fa. Anche perché anche la cultura qua giù, io lo dico insomma perché ho studiato una vita e sto studiando ancora, si acquisisce con una fatica enorme. Poi devi sempre tenerla fresca perché il magazzino della memoria non è come il magazzino dell'eternità creata, dove tutto quanto rimane conservato. Cioè, purtroppo qui il magazzino nostro c'ha un sacco di falle, c'ha un sacco di fuoriuscite, quindi devi starlo sempre a tenere, andare a controllare le cose che ci stanno, perché se no poi ti diventi sicuro che ci stanno lì dentro, ma è un macello, insomma, no? Sono tutte quante le miserie e le imperfezioni della nostra vita terrena. Di là però non è così. Allora, era affascinante la mia bilocazione, mi sentivo bambino ed anziano alternativamente, simultaneamente, questa è la cosa grande, simultaneamente. Le esperienze della mia infanzia cercavano di rompere con tutta la loro carica emotiva nella mia coscienza, ma in un modo naturale, senza conflitto psicologico. Nella mia mente presto incominciarono a sorgere ansiose cose vissute nella mia infanzia. Capitolo 19. Esplorai senza difficoltà il mio cervello di bambino. Non capii come, ma notai che in contrasto con la mia esperienza attuale, i centri nervosi della memoria contenevano delle immagini disordinate, anziché riflessi condizionati. Ciò mi dimostrava che i miei antichi atti di esistenza persistevano cronologicamente conservati negli spazi della quinta dimensione. Aveva ragione la mia amata maestra. Quindi lui capisce la differenza tra la sua memoria di bambino e la sua memoria di adulto. Anche un bambino ha la memoria, ma è una memoria molto più disorganizzata, diciamo così, rispetto a quella di un adulto. E lui questo lo percepisce. Di nuovo sentii, perché lì stavano freschi con desiderio di affiorare nella coscienza, molti ricordi che nell'età matura mi si erano cancellati. L'immagine di mia nonna, con la sua bontà ed energia, quella di mia madre, giovane allora, attiva, avvezza al soffrire, fedele nell'adempimento del dovere, triste per la sua prematura vedovanza e fiduciosa per il mio avvenire. Erano immagini calorose e vitali per la recente origine. Tutto ciò mi procurava delle sensazioni nuove e molto gradevoli. Il ricordo in sé, attenzione, era diverso dalla coscienza di stare a viverlo una seconda volta. Cioè, io posso ricordarmi benissimo alcune scene di bambino, ma riviverle in questo modo sarebbe tutta un'altra cosa. Era differente anche dalle fantasie del sogno. Voi sapete che alcuni sogni, noi possiamo anche sognare in parte episodi legati alla nostra vita passata, no? E a volte ci sembrano veri. Forse rassomiglia, sebbene mai non ho avuto l'esperienza, alla sensazione di essere già stato in un luogo che si vede la prima volta. Probabilmente molti fenomeni parapsicologici, attenzione, avranno spiegazione dalla perennità degli esseri nella quinta dimensione. Forse Dio permette, per ragioni che lui sa, che certi mortali visitino il passato o il futuro ed in un certo qual modo operano su di essi. Sarebbe allora il caso della precognizione e della conoscenza del passato altrui. In questa indimenticabile bilocazione, la mia anima faceva delle comparazioni e delle deduzioni. Nonostante stavo vivendo al ritmo di bilionesimi di picosecondo, come ormai sappiamo, aveva ragione la mia bella amica. L'anima umana per se stessa si trova libera dal trascorrere degli spazi e tempi e dall'organismo che essa sta animando consostanzialmente. Tenera amata mi disse poi che rimasi appena alcuni, attenzione, 100 milionesimi di pico secondo nel mio corpo di bambino, ma a me sembrarono ore. Di nuovo torna questa singolarità, no? Quindi questa apparente completamente contraddizione in termini, 100 milionesimi di un pico secondo, vi ricordate? Adesso non li faccio, torniamo indietro. Che cosa è un pico secondo? Cioè uno fratto un numero già lunghissimo, d'accordo? Quindi assolutamente inconcepibile, cioè per noi già dire un millesimo di secondo, che il cronometro riesce a contarli, i nostri cronometri, è già, cioè è una cosa che facciamo in un millesimo di secondo, forse faccio un battito di ciglia in un millesimo di secondo, forse, non so, forse anche un centesimo di secondo per fare un battito di ciglia, non lo so, per dire, no? Allora, non vi è dubbio che l'idea di passato, presente e futuro sono prive, attenzione a questo concetto, di realtà oggettiva. Esse sono dovute al punitivo legame della coscienza umana col momento attuale che segna l'orologio. anche queste cose noi le sentiamo dire e come facevano strano a Riccardo, sicuramente faranno strano anche a noi. Ma dire che presente, passato e futuro sono realtà prive di consistenza oggettiva, ma semplicemente legata alla nostra percezione soggettiva, dipendente dal fatto che stiamo sempre incatenati come uno schiavo a catena all'istante attuale, quindi nello scorrere del tempo. Anche qui aprire prospettive è abbastanza inedite, abbastanza interessanti. Andiamo avanti. Oggi finiamo questo viaggio probabilmente nel corpo del bambino, no? O quasi. Esplorare le mie conoscenze infantili erano molto scarse, timide ed erronee, ovviamente. Ah, se lei mi avesse permesso di informare il mio cervello infantile dei tanti riflessi condizionati che ho adesso, dell'essenza di quanto ho studiato, ma lei mi aveva avvertito che dovevo solamente osservare come spettatore, che non operassi sul mio corpo infantile e mi risultava tanto facile attuare su di esso. Mi rendevo perfettamente conto. In un attimo avrei potuto infondergli formule, leggi scientifiche, abitudini, abilità. Ricordiamo che questo è uno scienziato quello che parla. Chissà se avviene così nei bambini prodigi. Quel ragazzino era ansioso di conoscere delle verità. Percepivo io, anziano, i suoi difetti acquisiti. Mi sarebbe stato tanto facile aiutarlo. Se almeno lo avvisassi di tanti pericoli, lo prevenissi di tante illusioni. Ma no, lo avrei fatto diventare un bambino vecchio. Gli avrei ammazzato molti sogni, belli, gli avrei tolto slancio nelle sue imprese. In quel momento io, il vecchio, percepivo il suo ingenuo amore verso tenera madre. Che prodigio sentire in tutta la sua veemenza quella passione rediviva, così violentemente contraddittoria, allo stesso tempo dolce e tragica, tenera ed esplosiva, stagno e vulcano. Tornavo io a sperimentare la mia voglia di vivere, la mia brama di sapere e di arrivare a tutto. Ma si capisce senza andare a scuola. Questa bilocazione fu, nella mia acciaccata età matura, una tonificante trasfusione di vitalità infantile. Ringrazia il nostro Dio, disse Teneramata, per averti dotato di un'anima spirituale e non soltanto di organi materiali incapaci di bilocarsi. Attenzione che il principio della bilocazione, ecco perché l'anima è sempre evidentemente il principio primo e più importante, è l'anima. È l'anima che sta attuando in due corpi diversi. Quindi evidentemente il punto di, come dire, di focale, il punto di convergenza della nostra identità e della nostra personalità, è chiaro che è l'anima. Ma è la forma sostanziale del corpo e di tutti i nostri corpi che abbiamo avuto. Sì, risposi al tempo stesso che sentivo una forte tentazione di comunicarmi intellettualmente al mio corpo infantile. Naturalmente lei si rese conto e mi esortò perché non lo facessi. Ma la mia imprudente curiosità, come quella di Adamo ed Eva, prima c'era una nota di Don Pablo dove diceva si ripropone la tentazione del giardino, non sopportò la tentazione e fece un atto di impero sul bambino immobile. Gli domandai, chi sei tu? Tatatatata. Vediamo che succede adesso. Incominciavo appena a notare la rivoluzione cerebrale che gli produsse la domanda. Quando immediatamente Teneramata mi tirò fuori dal mio corpo infantile. Mi sentii di nuovo anziano accanto alla mia celeste amata, ancora sul marciapiede di fronte alla finestra. Fine del gioco. Perché lo hai fatto? Mi chiese con affetto ma con un certo dispiacere. Non dovevi influire coscientemente sul tuo corpo di bambino. Non capisci che questo si ripercuoterà su tutte le fasi del tuo corpo integrale ed eterno? Avrei dovuto supporre che ti saresti contagiato di infantilismo. Lui dice: ma oramai sono vecchio, ciò che ho fatto adesso nel mio corpo bambino non mi ha disturbato finora. Mi dice il nostro Dio, sentite che bella questa cosa che dice, unito sempre a me per gloria essenziale, che io dovrei condurti alla tua adolescenza affinché tu possa vedere come influì in qualche cosa, sia pur leggermente, questa temeraria domanda nella tua vita. E qui pensate adesso alle cose che si complicano notevolmente se cominciamo a pensare a queste cose con la nostra testa umana. Ecco perché anche molte domande che mi fanno, sia nelle mail, attenzione, molti fanno le domande nei commenti pubblici ai video di YouTube. Dovrete capire, io in pubblico non rispondo alle domande, d'accordo? Ci sono dei moderatori dei commenti, anzitutto. Io non mi posso, a parte il fatto che di tante questioni non è mai bene parlare in pubblico. Ma voi immaginate se io mi mettessi a rispondere a tutte quante le domande che arrivano su YouTube, su Facebook, su Twitter, cioè no, io non cioè, metto le cose ma ordinariamente non interloquisco e rarissimamente, mi si perdoni, anche sul canale Telegram. Rarissimamente, proprio quando capita qualche cosa che si capisce che, o che qualche amministratore mi dice: guarda, che hanno detto questa cosa, di qualcosa, oppure che vuole, dico io, ecco, perché sarebbe impossibile, sarebbe, cioè, anche io sono una persona limitata e faccio difficoltà anche a stare al passo con, come dire, con le consultazioni private perché. Io non sono una superstar, evidentemente, però quel poco, diciamo così, di seguito che ho, se tu non lo gestisci un po', ti manderebbe al manicomio. Ti manderebbe al manicomio. Tra telefonate, mail, immaginate, no? Commenti pubblici. Cioè, uno non dovrebbe fare altro la mattina alla sera. Dimenticando che comunque la mia missione principale rimane sempre quella della parrocchia. Ecco, per quanto i parrocchiani mi diano poco da fare, perché anche questa è una realtà molto molto piccola, però ci sono tante cose da considerare, soprattutto poi il limite degli spazi-tempi e il fatto che il tempo è comunque limitato, no? Riprendo la lettura. Quindi guardate che bello, Dio che è sempre unito a me per quello essenziale, cioè lui fa questa cosa e dice: ma tanto non è successo niente. Dio dice a Tenera Amata, dice, per fargli capire che non è vero che è successo niente, portalo un attimo a vedere quella scena della sua adolescenza e poi vedrà se non è successo niente. Ma questo voi capite, se, ripeto, se ci rimettiamo con la nostra testa, tu dici, scusa, allora, lui era adolescente 50 anni prima di questo evento. Con Tenera Amata si spostano a 50 anni prima, entrano in questa sorta di macchina del tempo che l'eternità ha creata e gli fa attuare coscientemente il suo corpo di bambino, ma lo attua un 58enne. E com'è possibile che una cosa fatta dopo dal 58enne sul bambino influisca quello che è avvenuto nell'adolescenza, cioè una cosa prima? Non so se penso che tutti abbiamo fatto un ragionamento molto umano di questo genere, ma non possiamo fare questi ragionamenti umani quando stiamo dinanzi a queste cose. Non possiamo. E non dobbiamo, perché non usciremo mai. Mi sentii pieno di confusione come un anziano disobbediente che è affetto di complesso di adolescentismo impulsivo. Questo mo se vergogna perché ha fatto la marachella, ha fatto il discolo. Quello gli ha detto non devi fare niente e lui ha ceduto alla tentazione e ha detto chi sei tu? Il nostro Dio aggiunge, continuò Teneramata. Il nostro Dio aggiunge, continuò Teneramata, che questa domanda che hai fatto al bambino ti causò un lieve sdoppiamento della tua personalità, il quale, pur senza gravi fastidi, ti turbò un po' nella tua conoscenza. Ricorda, non ti ricordi che ti domandavi chi sono io? E che osservavi te stesso cercando la causa di una tale strana e imperiosa domanda? È vero, con i colpi della vita me ne ero dimenticato, perdonami. Capite, no? Allora, Dio, dice Teneramata, rinfrescagli un po' la memoria. Ricordagli il fatto che durante l'adolescenza ogni tanto si domandava, ma io chi sono? E poi si chiedeva, dice, ma perché mi sto a fare questa domanda? Ma pensa alla salute. Perché se la stava a fare? Perché lui stesso gliel'aveva fatta a sé bambino. Capite? Cioè, che capite? È difficile. Cioè, focalizziamo, ecco, che già sarebbe tanto. È vero, con i colpi della vita me ne ero dimenticato, perdonami. Infatti ricordai che essendo giovane leggevo Il discepolo di Paul Bourget. Non conosco questo libro, per vedere se trovavo la causa di quel leggero ma molesto sdoppiamento della mia personalità. Sdoppiamento della personalità. Con quanta ragione Dio ci tiene rinchiusi dentro le transenne dello spazio-tempo del momento attuale? Perché se ci lasciasse vagare a piacimento nostro nel complesso labirinto delle onde temporali, ci danneggeremmo noi stessi fino al disastro. Questo è un punto molto importante e che ci fa comprendere anche quanto è grande e quanto è importante la divina volontà. Ecco. E che ci fa anche comprendere quanto è grande e quanto è importante l'umiltà profonda, imparare a stare al nostro posto. Voi pensate alla gente, perché sono peccati mortali, per esempio, gravissimi, chi va a ricorrere alla divinazione, ai medium, alle scritture automatiche, ai registratori, quindi che vuole in qualche modo, o va dai maghi, no? Per conoscere il futuro. Sono cose che il nostro Signore ci ha interdetto. E non dobbiamo cercare di sfondare queste porte, perché questo produce delle conseguenze nefaste, negative. Riccardo sta dicendo, noi non saremmo in grado di gestirlo adesso una situazione di questo genere, non sapresti che fare. E se ti muovessi in qualche modo faresti solo che guai. Guai, come l'ha fatti lui. Non vi è dubbio che la materia, l'energia, lo spazio, il tempo e l'eternità creata sono dei complicatissimi meccanismi, dei quali soltanto osserviamo e comprendiamo il loro aspetto esterno senza poter capire gli intimi meccanismi. Questo mettiamocelo in testa. Questo vale anche per tante realtà di fede, cioè tante domande che vengono fatte, che non ci sono risposte, non ci sono. Non bisogna proprio farsene certe domande. Perché noi siamo limitati tanto. Tu puoi averci tutta quanta la cultura che vuoi, puoi averci tutte quante le lauree che vuoi, puoi fare tutto quello che ti pare. Cioè, in questo mondo c'è un limite oggettivo che deve farci sempre volare bassi. Io credo che siano di grandissimo aiuto perché se uno queste cose proprio le digerisce, ma la superbia, per esempio. Ma come si fa a essere superbi? Ma che te devi essere superbo? Noi non siamo nessuno, non siamo. Questo Quel poco che ci abbiamo è poco, è imperfetto. È imperfetto. È povero, è piccolo. E con questo dico, non pensiate che Don Leonardo sia qualcosa, per favore, d'accordo? Se esce qualche cosa di buono dal sottoscritto, datene sempre lode e ringraziamento a Dio. Per favore. Dico questo perché ogni tanto qualcuno lo fa. Allora, io direi che è bene fermarci perché adesso poi inizia il 20° capitolo dove si aprono degli spiragli ulteriori anche in relazione al commento di ciò che è accaduto e un po' una sintesi di questa particolare esperienza. Va bene che lo trattiamo la prossima volta, in modo tale che ce lo gustiamo e ce lo leggiamo tranquilli e con calma. Quindi ci diamo appuntamento con questo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga.